La vita è un uragano, il gioco negrita qui su Radio Stonata, 20 e 24 minuti e siamo arrivati al momento di collegarci con la bellissima località ridente di Castel Goffredo in provincia di Mantova, dove troviamo come ormai base fissa direi il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio, buonasera e ben ritrovato. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Ridente mica tanto, oggi che Castel Goffredo sembra che si stia per scatenare un uragano. Non so delle vostre parti come siete messi, ma qua no, il tempo fa i capricci ultimamente. No, il tempo dalle nostre parti da un po' di giorni è bello, sole, con un po' fa caldo, l'afa, quella che non manca mai. Però ho letto le previsioni meteo, il brutto tempo, quello che era al nord d'Italia, si sta trasferendo verso il sud, quindi non ci faremo nemmeno mancare quello. Ma ti abbiamo lasciato in Piazza Duomo a Brescia, e so che ti sei divertito. Sì, eravamo a Brescia tutti quanti insieme, i partecipanti e gli amici e i curiosi di 7000 miglia lontano. Adesso tra il tempo un po' ingrigito e i viaggi mi hanno lasciato un vuoto temporale tra un viaggio e l'altro, quindi mi sono lasciato un po' andare alle curiosità, ai ricordi e alle notizie. E in retroscena pure direi, cioè quelle cose che ci sono sfuggite durante i racconti direttamente collegati dai luoghi in cui ti trovavi. E ora che li riviviamo con più calma e osservandoli meglio. Eh sì, tra uno scherzo e l'altro delle nostre potentissime logiche, vuole dire il mio smartphone di quarto ordine, e le connessioni a cui siamo soggetti, ogni tanto qualcosa ovviamente sfuggiva. Ed è stato proprio mentre leggevo le pagine dei giornali oggi che mi sono imbattuto in questa simpatica notizia di cui non avevo nemmeno nozione, cioè che sabato scorso, il 13 giugno, si è festeggiata in Finlandia la giornata nazionale della sauna. E tu ne fatte soltanto in Finlandia se la potevano. E studiare. Tu ne fatte tante di sauna in Finlandia. Mi ricordo che proprio prima di chiudere un collegamento mi hai detto che ti aspettavo una sauna, Flavio. Proprio l'ultimo nostro collegamento della Finlandia qualche tempo fa mi vantavo di avere la sauna in camera. Infatti per i finlandesi la sauna è un momento molto più che semplicemente di svago, come possiamo immaginarlo noi, una volta alla settimana, una volta intanto. Per loro è un bisogno irrinunciabile, quasi anzi quotidiano, decisamente quotidiano, tanto che infatti hanno istituito questa festa nazionale che dagli anni 80, ormai dagli inizi degli anni 80, si ripete ogni anno per celebrare insieme a tutto il popolo, tutta la cittadinanza finlandese, l'importanza, il valore anche sociale e collettivo della sauna. Quest'anno la celebrazione sono cominciati da Sikkala, sì. Cominciamo a dire nomi quasi impronunciabili, con una dichiarazione per la tranquillità della sauna, cioè un elogio alla sacralità della sauna, che poi è proseguito nelle divagazioni indicando alcuni che sono i comportamenti corretti da tenere in sauna. Ed è una cosa simpatica immaginare questo suolo di finlandesi che noi immaginiamo persone estremamente ligie, corrette, ordinate, ricordarsi una volta l'anno che ad esempio tra le varie indicazioni c'erano di non colpire troppo forte i compagni in sauna con i rami di betulla. I rami di betulla sono dei ceppi che vengono raccolti in mazzi e vengono utilizzati in Finlandia durante la sauna perché strofinarsi, accarezzarsi il corpo con questi ha un effetto benefico sui muscoli. Dei muscoli e inoltre alleghe di morsi zanzara, che anche in Finlandia, non scherzo, una delle sorprese che ho avuto durante il mio viaggio, persino in Finlandia ci sono le zanzare e a quanto pare amano la cucina italiana, quindi attenti se noi dello stivale andiamo in Finlandia, non ne mancheremo nemmeno una. E poi dicevano di non buttare troppa acqua sulle braccia una volta sola, cioè insomma questi, è un'idea un po' simpatica, come che si danno queste direttive una volta l'anno come se ne avessero bisogno, come se non fosse vero che loro in Finlandia ci vanno da giovanissimi. C'era uno di questi miei nuovi amici finlandesi che mi raccontava una volta che il figlio l'ha portato per la prima volta in sauna che aveva solamente 3 anni. Io mi ero un po' spaventato, immaginavo la sauna come una cosa insomma da prendere con una certa attenzione, con una certa preparazione. Lui mi ha detto no, basta che non rimangono troppo a lungo. Infatti quasi tutti i finlandesi hanno la sauna in casa, quasi tutti i finlandesi si trovano con amici e parenti il fine settimana o tranquillamente la sera dopo il lavoro per riposarsi, per ristorarsi in sauna, però eventualmente se ne hanno l'occasione di buttarsi nelle acque gelide dei laghi, a loro dei bacini d'acqua a loro disponibili. E in tanti camere d'albergo, come dicevo, ce n'è una e anche noi poco siamo andati. E anche nella tua camera ce ne stava una. Nella camera ovviamente c'era una bella sauna. Flavio, ci ascoltiamo un brano e ritorniamo subito, ok? Va bene. E lui è Tiziano Ferro qui su Radio Stonata con Incanto e siamo sempre collegati col nostro Flavio Laggia a Castel Goffredo in provincia di Mantova e gli chiedevo fuori onda qual è il... perché noi parlavamo di cibi, perché ognuno di noi poi finita la trasmissione andrà a mangiare e quello del cibo, no, una cosa tipica di Castel Goffredo, e mi ha detto com'era? Il tortello alle erbe amare. Vabbè, poi ci racconterai qualche volta facciamo anche. Ma no, Flavio, però la dobbiamo fare sta trasmissione su Castel Goffredo alla fine. Data finale interamente dedicata a Castel Goffredo. No, veramente, non scherzo, dai, impegnati, falla, cioè. Parla pure con l'assessorato al turismo di Castel Goffredo e gli dici che saranno su Radio Stonata almeno. Onestamente non so se c'è un assessorato al turismo a Castel Goffredo, non mi sembra che abbia molto lavoro da fare, comunque verificherò. Va bene, siamo in Finlandia, il 13 di giugno era la festa nazionale della sauna e tu ci stavi raccontando appunto che la sauna in Finlandia la usano già da piccoli, da bambini, che la troviamo in tutte le case, che se la si fa di solito dopo ritornati dopo a casa oppure un giorno che ti vuoi rilassare. In sauna li trovano sempre. Te prima fuori onda mi chiedevi se eravamo tenuti a entrare con l'asciugamanino, con tutti i nudi nella sauna. In realtà i finlandesi non hanno... o meglio, sono abbastanza liberi da questo punto di vista, ma le saune che si incontrano più frequentemente sono quelle miste, in cui entrano contemporaneamente uomini e donne, e quindi lì ovviamente si è tenuti a indossare il costume da bagno, mentre invece le saune per soli uomini, le saune per soli donne sono loro almeno sono abbastanza a loro agio a entrare anche senza alcunché addosso, se non al massimo un asciugamano, che serve anche per proteggersi dalle temperature e poi delle panche su cui ci si siede. Te mi dicevi che non sei mai stato in una sauna non è soltanto l'aria, il vapore, è tutto quanto è bollente, quindi l'asciugamano ha una sua preziosità, un suo perché, anche per motivi più logistici, più pratici. Noi quando ci siamo buttati in questa esperienza della sauna eravamo vicino al confine con la Russia, nella Finlandia orientale, quindi eravamo intorno al lago Saimaa. Mm-hmm. Lago Saimaa è il bacino d'acqua dolce più grande di tutta la Finlandia, è il quarto per estensione di tutta Europa ed è un enorme lago costellato da tantissime piccole isolotti sulle sponde del quale si spargono tanti piacevolissimi centri benessere, saune, alberghi, resort in cui immergersi nella natura e fare appunto il gesto di buttarsi nel lago subito dopo aver fatto la sauna. Quando siamo andati noi l'acqua era intorno ai 10 gradi, quindi una bella botta dopo la sauna. Io ho ricevuto una medaglietta per il mio coraggio, di cui sono ancora orgogliosissimo, me la sono portata in giro per tutta quanta la mia esperienza in Finlandia. Eravamo a Huskanhelmi, purtroppo ancora non hanno accettato la mia indicazione di semplificare i nomi delle località con un soprannome di 4 lettere, 2 vocali, 2 consonanti, quindi Huskanhelmi, dove non si fa soltanto sauna ovviamente per quanto sia piacevole, ma Lago Saimaa è gettonato anche per le innumerevoli attività che si possono prendere sia fuori che dentro l'acqua. Noi all'epoca lì nella nostra prima sauna abbiamo fatto lo stand up paddling, cioè questa nuova attività molto in voga soprattutto nei bacini d'acqua più quieti, più calmi, in cui ci si mette non in cerca di onde come in altre circostanze, ma semplicemente in piedi su questa tavola e con una pagaia ci si dà la spinta per fare un giretto per prendere un po' di movimento. Abbiamo grigliato pesce, mangiato carne, anche in Finlandia si mangia buonissimo, tornando alla questione del tortello amaro. Non hanno il tortello amaro, che abbiamo soltanto noi a Castelvofreddo, ma non ci siamo potuti lamentare. Dopo siamo stati anche a Puncaraggio, noi ci eravamo sentiti giovedì, Beppe, quindi venerdì e sabato, poi non te l'ho più potuto dire cosa ho fatto, quindi ne approfitto per raccontarlo un po' ora. Puncaraggio era la località appunto dove ho la famosa sauna in camera, di cui ancora adesso mi vanto con gli amici, ma è anche una località vicina a Pumala, dove invece il giorno dopo abbiamo fatto il nostro ingresso in una fattoria museo chiamata Jätelänniemi, la cui sauna, appunto, anche nelle fattorie finlandesi c'è una sauna. Non è una saletta incorporata nell'abitazione principale, ma è piuttosto un edificio a sé stante. Era uno degli edifici delle costruzioni più antiche di questa fattoria museo, ed era una sauna a legna di 180 anni fa. Quindi anche quello un bel pezzo. E questa era una piccola finestra su un mondo rurale di cui spesso nella nostra civiltà si perde memoria, invece ne abbiamo potuto fare esperienza proprio lì a Pumala. E poi ancora, io l'altra volta, se ricordi, dicevo che questa non è spettacolare proprio dal punto di vista, cioè non ci sono i picchi ghiacciati, i pendii nevati, è una bellezza più tenue, più pacata, ma è molto godibile, soprattutto se si impara un altro qualche giorno. Finalmente abbiamo capito la preziosità di questo luogo, cioè l'immersione nella natura, il rallentamento dei ritmi e soprattutto l'usufruire di questi posti meravigliosi dove c'è il centro benessere, la sauna, questi alberghi in stile finlandese, in legno, molto molto carini, di cui abbiamo avuto esperienza anche nella vicina Hokkala, sempre sul lago, dove invece sono presentate delle piccole villette, dei cottage proprio sulla sponda del lago, abbastanza distanti, anche diversi chilometri l'uno dall'altro. È una località questa che è raggiungibile soltanto col traghetto. C'è un traghetto gratuito per tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dicevano, al massimo la sera c'è un numero da chiamare, ma qualcuno ti viene sempre a prenderti per spostarti in qualunque. Quindi veramente è isola nella natura. E così tanti altri. Uno dei posti in cui abbiamo soggiornato noi si chiamava Antolanovi Wellness Village ad Antoli, ed era spettacolare perché si componeva di strutture molto moderne. Sai quando entri all'IKEA e rimani meravigliato da quelle buffe costruzioni di legno in cui ti immagini possono vivere soltanto strani esserini provenienti dallo spazio? Ecco, così però in grande, esteso per chilometri e chilometri di territorio. E alla fine l'ultimo giorno, il sabato, ci siamo spostati a Imatra, che è invece una cittadina un po' più sostenuta, dove abbiamo fatto anche un po' di vita sociale. Insomma, ci siamo anche andati a bere qualche buona birra finlandese la sera, per darci proprio interamente tutta la giornata alle attività di cui ti dicevo. C'erano quindi una figura catastrofica dietro l'altra nel mio caso, perché prima ci hanno spediti all'Adventure Park a Trenalin Saimaa, che è uno di quei parchi avventura dove ti attaccano coi moschettoni sugli alberi e ti lanciano tra un albero all'altro con carriole, funi, insomma tutta una serie di attrezzi su cui io potevo fare delle figure spettacolari. E poi abbiamo fatto parasailing, anche questo si può fare sul lago Saimaa. Parasailing, casualmente venisse subito in mente, e quell'attività in cui ti attaccano a un paracadute, il motoscafo ti fa prendere velocità e tu pian piano col paracadute sali in altezza. Io, che avevo la mia telecamerina a portata di mano, mi sono concentrato interamente su quella, per non cominciare a urlare disperato come una ragazzina. E alla fine abbiamo fatto il floating. Floating era un'esperienza nuova anche per me. Si sono inventate queste enormi tute che sembrano una specie di gabibbo arancione una volta che ci sei entrato dentro. E con queste galleggi liberamente sull'acqua, sembra di stare quasi a gravità zero sul fiume che ti porta quietamente lungo il suo tragitto. Ecco qua. Abbiamo finito, Flavio. Cioè, proprio un racconto. Cioè, quest'ultima cosa mi è piaciuta. Eppure il fatto del paracadute, quindi quasi quasi vado in Finlandia. Flavio, ci sentiamo giovedì. Non penso di ritrovarti ancora a Castel Goffredo, immagino. Penso di no, Beppe. Giovedì non ti so dire. Facciamo che è una sorpresa. Non vorrei dire una cosa, poi Infatti, vengo contraddetto dai è fatti. capace Meglio. che lo ritroviamo ancora a Castel Goffredo, che ci prepara qualcosa da mangiare. Grazie a Flavio Alagio di nonsoloturisti.it. Flavio, buona serata e vai a cenare. Grazie a te, Beppe. Buona serata a tutti e buon appetito.